Perché? Questa è la domanda che più spesso mi pongono. Pourquoi? Perché? A che scopo? Perché tu cammini sul filo? Perché tu sfidi il destino? Per me, camminare sul filo è la vita. Sì, la vita. I funamboli, cronache di un paese in equilibrio. Di Alessandro Milan, con Veronica Gentili e Leonardo Manera. Siamo qui, sono le 9:09, in punto i funamboli sono tornati qui su Radio 24 in diretta. Come sempre c'è la nostra redazione che scalpita con Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli, Elisa Pancaldi lì e col nostro Peter Bescapè in regia. A Roma, Veronica, c'è Alessandro Chiappini. Chi c'è? Chi avete raccattato oggi? C'è un bel Alessandro Chiappini, fresco, appena arrivato, ha dormito anche bene, mi sembra, a guardarlo. Ha dormito lì? Sì. Ha dormito lì. Di solito usa dormire qui perché preferisce non evitare la sveglia antelucana, no? Dice, c'è un divanetto qua di fianco, sta bene abbastanza. Sì. Allora, Veronica, oggi vogliamo partire parlando del caso Weinstein, che ormai non è neanche più il caso Weinstein. Un argomento dal quale ci eravamo ancora esentati finora, nonostante sia imperversato ovunque, alla fine abbiamo deciso che anche noi non noi era impossibile sottrarci. Sì. Ma non è neanche più parlare del caso Weinstein, del caso Asia Argento, che ora dice lascio l'Italia. Oggi Laura Boldrini sul Corriere della Sera dice no, rimani, le donne devono fare sistema, devono difendersi, devono fare gruppo, devono... No, rimani in Italia, ecco, questo è l'appello del Presidente della Camera. Però, insomma, qui bisogna parlare un po' di rapporti di potere, noi maschietti, voi femminucce. Diciamo che questo è un argomento che può essere declinato perlomeno su 10 fronti diversi, no, e che a volte quello che poi porta al grande caos è che lo si tratta in maniera monolitica e la discussione si riduce a zero. Per questo no, però, arricchire i punti di vista è sempre utile per evitare di farne una discussione così. Diamo anche statica. I numeri di telefono 800 24 00 24, questo è il numero per chiamarci se avete qualche parere, se avete capito qualcosa, se avete un'idea su questa vicenda che coinvolge certo persone lontane come un produttore di Hollywood che nessuno conosce, nessuno che ci ascolta, oppure vicinissime e comunque coinvolge tutti noi, no? Chi nella vita non ha mai avuto... Vogliamo dire che l'aspetto più interessante è stato quello che da una denuncia apparentemente lontana, quindi legata a una questione cinema, Hollywood, ai livelli più alti, gradualmente poi grazie al lancio anche di questa campagna che è stata lanciata con l'hashtag MeToo, sì, tutte le donne hanno cominciato a raccontare quelli che sono stati episodi di molestie, e anche lì poi bisogna pesare le parole, perché l'attenzione tra il concetto di abuso, molestia, stupro, parola anche che è stata utilizzata talvolta in queste occasioni a sproposito, a mio avviso, si è iniziato a raccontare quali sono state tutte le donne di tutte le categorie, di tutte le fasce sociali, le età, quali sono state le occasioni in cui sono state in qualche modo abusate. Tra l'altro Me Too, cioè anche io, è una campagna lanciata in Francia, ma anche in Italia c'è una campagna che gira molto come hashtag per chi è uso frequentare Twitter. Quella volta che. E noi partiamo alle 9:12 da qui, dai nostri primi due funamboli, perché quella che ha inventato quella volta che è qui ai nostri microfoni. Tra poco. Quello che sta uscendo in queste ore è che quest'uomo è stato uno dei più grandi predatori seriali della storia. Ma mi fa tenerezza ripensarci, perché era una ragazzina piena di sogni, ma non sogni di far carriera. Io non avevo mai avuto bisogno di andare a letto con un uomo per portare avanti la mia carriera, perché io avevo già girato il film con Harvey Weinstein quando lui mi ha fatto quella violenza, quindi non avevo nulla da ricavare da lui, capisci? Io ero una ragazzina che sognava l'Oscar. Asia Argento, era sì, da Bianca Berlinguer, a parlare in TV un paio di giorni fa, e poi dice vado via dall'Italia. Allora noi qui abbiamo Massimo Fini, fine intellettuale, scrittore, giornalista. Massimo, buongiorno. Buongiorno, eccoci. Ti saluto insieme a Veronica, che è una mia collega del Fatto. Sì. E ogni volta che scrivo sul rapporto uomo-donna, quelle del Fatto vogliono farmi la pelle. No! non lo so, secondo me Veronica no, però... Non è vero affatto, Massimo. No, è verissimo, questo è vero. Però noi lo chiamiamo perché è una penna corrosiva e quindi va bene così. Anzi, giusto appunto, stavo decantando le sue virtù intellettuali poco prima di iniziare la trasmissione, quindi non ero proprio intenzionata a farti il processo, Massimo. Allora, intanto noi vogliamo salutare anche Giulia Blasi, che è una scrittrice, che è colei che ha lanciato Quella volta che, questo hashtag che gira molto su Twitter. Giulia Blasi, buongiorno e grazie di essere qui con noi. Allora, Massimo Fini è uno che quando parla poi dopo non è che mette le cose, non è che rasserena gli animi, perché è uno che le sue opinioni le dice chiaramente, e sono opinioni spesso anche molto, molto forti. Massimo, su questa vicenda di Weinstein, tu reputi che ci sia, come dire, un abuso di potere, che sia stata violenza vera e propria, che siano, come le inquadreresti? Ma guarda, io... come ha detto qualcuno prima, forse Veronica, forse tu, dal caso Weinstein passerei a una questione più generale, che è quella delle molestie sessuali, che naturalmente riguarda il mondo intero e l'Italia pure. È un terreno scivolosissimo, perché nel rapporto uomo-donna, per ragioni che sono in realtà... antropologiche, biologiche, ma poi diventate culturali, è l'uomo che deve fare la prima mossa, no? E la prima mossa è, per forza di cose, qualcosa di intrusivo nella sfera personale, lato senso sessuale di lei. Ecco, se questo diventa molestia sessuale, e beh, allora non, è impossibile più avere rapporti. Adesso il fratello di questo Weinstein è stato messo sul torchio perché ha corteggiato una per 3 mesi. Beh, se non possiamo più corteggiare, se dobbiamo, come avviene negli Stati Uniti, già scrivere, verbalizzare e dire vuoi venire a letto con me? Compilare dei formulari dove due si mettono d'accordo che vogliono avere un rapporto sessuale. Dice, questo è troppo. Massimo, c'è un aspetto interessante di cui tu parli. Sì. Tu parli nel pezzo che hai scritto l'altro giorno di linguaggio sessuale, che dici che secondo te chiaramente non attiene alle sfere del giuridico, ma attiene in qualche modo a dei contratti non scritti tra uomo e donna. Ecco, che cosa intendi esattamente? No, devo dire che ci sono naturalmente dei... codici non detti nel rapporto fra lui e lei, da cui si capisce se parliamo subito di lei in questo caso, ma può essere anche il contrario, più raro, si capisce se lei è disponibile o non è disponibile. Io racconto la storia di quando eravamo ragazzi negli anni 50, faceva il ballo del mattone. Se lei ti metteva il gomito sul petto, vuol dire che non c'era niente da fare. Se ti metteva il braccio sulla spalla, era un segnale neutro. Se ti metteva il braccio intorno al collo, voleva dire che gli piacevi, ma questo non voleva dire ancora nulla, perché poi, ecco. Vabbè, adesso con i mezzi anche di comunicazione un po' più diretti, magari il ballo del mattone. Sì, no, ma il gomito sul petto era chiaro, devo dire che com'è. È interessante perché Massimo Fini dice anche, voglio dire, per entrare nel cuore della questione, lui lo chiama, perché usa un'espressione così, che è abbastanza efficace per esprimere la cosa, il fica power. Ecco, esatto. L'abbiamo detto in coro così. Sì, cioè ci sono uomini di potere che abusano sicuramente della propria posizione per portarsi a letto delle donne, e ci sono anche donne che probabilmente utilizzano la propria sessualità per fare carriera. Tu parli di una connivenza femminile che in qualche modo, pensando che poi è la parola topica che ha utilizzato anche l'Argento l'altro giorno nell'intervista che ha fatto, le scorciatoie cosiddette, quindi per avvantaggiarsi di un eventuale rapporto privilegiato con un uomo che possa servire ad accorciare allungare i tempi di un percorso lavorativo o magari a renderlo possibile quando non lo sarebbe, si mettono in condizione di... Però qui... Scusate, ecco, no, sentite? Esatto, certo, perché Giulia Blasi volevamo coinvolgerla, perché qui la questione ecco, poi è... Fate bene, perché mi avete chiamato per parlare di iniziativa, quella volta che, tutte queste cose meravigliose, però io a me sembra che in questo momento stiamo di nuovo a reinventare la ruota. Cioè stiamo di nuovo a fare la distinzione tra lo stupro che è un po' stupro, la molestia che è un po' molestia, se la stuprata deve essere lacero contusa in un angolo che piange altrimenti non è stata stuprata, stiamo ancora parlando dei costumi sessuali degli anni 50, stiamo ancora a dire cose che sono state ampiamente smentite dalla scienza ma pure dalla cultura, cioè l'idea che l'uomo debba fare il primo passo. Non è così, ma pazienza, cioè stiamo ancora a parlare di cose che non c'entrano assolutamente nulla con la molestia, con l'abuso di potere, col fatto che comunque molto probabilmente quello che noi continuiamo a chiamare connivenza femminile in realtà è ricatto, fine, dopodiché ognuna decide se pagare il pizzo oppure no, ma sempre pizzo è, perché di fatto c'è un guardiano davanti alla porta che decide se puoi entrare oppure no. Tra l'altro questa cosa non riguarda assolutamente solo le donne, riguarda tutte le persone che si affacciano su un sistema di potere, spesso tocca agli uomini. Noi in questi giorni stiamo parlando dei casi delle attrici che sono state molestate, ma negli anni noi ci siamo dimenticati che, per dire, negli anni Ottanta la coppia Corey Haim, Corey Feldman, che erano due ragazzini, sono stati tutti e due abusati dai produttori con cui lavoravano, uno è morto di droga. Ragazzi, di cosa stiamo parlando? Seriamente? Cioè, no, ma uno degli aspetti importanti che le volevo... Il parallelo fra lo stupro e la seduzione non c'entra nulla. No, ma è chiaro che sono due cose ben diverse. Anche la distinzione nelle parole, infatti, che è stata utilizzata, questo te lo chiedo proprio, che cosa ne pensi anche tu tra la parola stupro e la parola molestia? Non credi che ci sia stato in questo periodo, anche nell'utilizzo di quest'hashtag, una mistificazione? Cioè un po' la tendenza a mescolare tutto io quanto? Io credo che sia lo stesso, cioè uno spettro di molestia che parte dall'idea che le donne siano delle cose a disposizione, degli esseri poco sopra gli oggetti. Ma questo da parte di chi? No, perché se no anche qui si fa un po' del qualunquismo, mi scusi, no, Giulia Blasi. Scusi, io sono uomo e non penso che una donna sia una cosa. Ok. Allora voglio parliamo di cultura. Ma non voglio fare la difesa dell'uomo che ne sono molti purtroppo che pensano così. La cultura patriarcale, perché bisogna anche usare le parole giuste. La cultura in cui siamo immersi fa una teoria, quando parla di, innanzitutto ha messo la maggior parte del potere economico sociale nelle mani degli uomini. Come seconda cosa, le donne sono una cosa da avere. Case, macchine, orologi costosi, scarpe firmate, donne vengono sempre in fondo alla teoria. Per decenni Hefner ha tenuto orde di ragazzine dentro la Playboy Mansion dandogli la paghetta. Magari lo volevano. Lungi da me dall'avere quelli con... Ragazzi, di cosa stiamo parlando? Seriamente, stiamo parlando di uno squilibrio di potere enorme e in questo preciso momento noi stiamo di nuovo reinventando la ruota parlando di connivenza femminile. Il discorso è unicamente è da donna, io onestamente dico, parlando di connivenza femminile, io credo che possa essere anche un discorso funzionale al fare una riflessione collettiva. Altrimenti si rischia di renderla una riflessione unicamente rivolta al genere maschile. Cioè, ecco, nel momento andiamo avanti. Però è fondamentale, diciamo, perché altrimenti diventano fazioni di lotta di genere tra sessi, perché... che secondo me rischiano di non essere poi nemmeno produttive. È come dire, il fatto che anche una lotta di genere, che anche la donna si percepisca come un oggetto e che si trovi lei per prima a vedersi con gli occhi con cui viene vista da Harvey Weinstein, questo forse è uno dei punti di riflessione che andrebbe fatto al di là dei reciproci j'accuse, io credo. Però noi dimmi se sei d'accordo. Le vittime, ma nessuno processa le vittime. Non c'è niente di più lontano da me dal pensare all'icona della donna che va da il capo di Playboy e sta lì. Però può anche essere e può non piacere che quelle donne in estrema libertà vogliano farlo. Non è quello che io vorrei per mia figlia, non è che quello che io vorrei per mia figlia, ma esistono persone che liberamente scelgono anche quanto liberamente quella via. Ma cosa vuol dire quanto liberamente? Se non sono obbligate. Io credo che il discorso che Giulia fa, correggimi se sbaglio, e che credo che in parte sia molto sensato, è che nel momento in cui il mercato, definiamo così, diventa dopato, cioè c'è un'alterazione proprio genetica di come funzionano i meccanismi di potere lavorativi, alcune donne si trovano, lo accettano come una condizione data, anche quando non sono conniventi perché la cosa fa loro piacere, e si trovano a doverlo fare. Credo che ci sia anche questo, no? Poi c'è chi decide di pagarlo in maniera più o meno serena. Cioè, che vuol dire che una donna per fare carriera deve solo passare attraverso questo pizzo, estremizzando. Non dico che deve, ma è una questione che le viene posta troppo spesso. Vogliamo tornare a... Noi non ci stiamo domandando perché. È connaturata a quella che è la riflessione sul lavoro femminile, su un percorso femminile. Massimo, e questo Fini, è un elemento che reale. Pensi? Che pensi non di questo? Si può non... Massimo Fini. Sì. Beh, c'è anche un altro aspetto della questione. È vero che gli uomini di potere abusano molto spesso, e non parliamo qui di Hollywood, ma parliamo di azienda, eccetera, del loro potere. Ma è anche vero che gli uomini di potere sono anche estremamente ricattabili, nel senso che se lei ti accusa di aver fatto una base, parola contro parola, tu sei spacciato. Un banchiere americano ha detto: io su un ascensore con una donna sola non ci salgo, aspetto il giro successivo. Ma io stesso voglio dire che ho un pubblico di ragazzi e ragazze che ogni tanto vengono a trovarmi. E beh, fino a non molto tempo fa ricevevo in casa sia gli uni che gli altri. Oggi, se una ragazza che mi chiede di incontrarmi, la incontro al bar. Ecco, c'è anche questo aspetto, ma c'è un altro aspetto su cui il femminismo avrebbe dovuto ragionare di più, e cioè che quelle che su ricatto accettano scorciatoie, un ricatto lo sappiamo bene, danneggiano quelle donne che invece sul posto di lavoro si comportano correttamente. E di questo devo dire che il femminismo non si è mai occupato. Ecco, questo è uno degli aspetti secondo me più interessanti, Massimo. Lasciami finire. Non si è mai interessato, mentre è una questione è abbastanza fondante, perché è l'abbattimento della tanto decantata meritocrazia. Anche come se poi le donne che invece in qualche modo si oppongono a questo sistema dovessero farlo sentendosi delle eroine, e questo è un po' il ragionamento che invece diventa particolarmente sgradevole. Cioè, bisogna avere una forza, un amor proprio nel momento in cui, in particolar modo, non parliamo di situazioni di vantaggio come possono essere quelle di queste persone nello specifico, ma di gente più inguaiata nello sbarcare il lunario, che deve sentirsi un eroe ad opporsi a quella che è una dinamica data per assodata. Allora, questo forse è uno degli aspetti più importanti. Ci sono anche tante telefonate di ascoltatori. A Giulia Blasi però non abbiamo chiesto, perché siamo entrati, come dire, con grande irruenza, non abbiamo chiesto di questa iniziativa, cioè come è nata, perché, cioè quella volta che è, e che tipo di risposta sta ottenendo. Ma è nata, in realtà fa un po' ridere dirlo adesso, ma è nata da un microgruppo femminista molto misto, nel senso che siamo maschi e femmine, quindi essenzialmente persone che si occupano di questioni di genere e che un po' si trovano per rifugiarsi le une delle altre, proprio per capire anche meglio le cose, spesso anche per chiarirci le idee. Io ho buttato l'idea dentro questo gruppo dicendo: cosa vi sembra? E gli altri hanno detto: bellissimo, facciamolo. Per cui siamo partiti così, con l'idea di fare un micro progetto narrativo. Quindi io ho raccontato una piccola storia che mi riguardava, che era in realtà non una molestia, ma il momento in cui mi sono sentita insicura in una stanza con un uomo, e sapevo che se fosse successo qualcosa non mi avrebbero creduto. Poi lui in realtà non aveva, ci stava un po' provando, ma non è successo nulla, lo dico anche nel post. Io ho fatto questo post, e gaypost.it e passionaria.it hanno messo a disposizione le loro redazioni per raccogliere le storie delle persone che volevano raccontare in questi momenti, quindi il momento in cui si sono sentite minacciate, molestate, potevano raccontare molestie subite di qualunque ordine e grado, non abbiamo posto dei paletti o fatto di no, ma è chiaro, in chiaro. Questa cosa qui è nata in maniera più o meno in sordina venerdì scorso, la sera, e dopodiché io ho scritto un post in inglese per spiegarla un po' al resto del mondo, nel senso, io ho un profilo medium che ogni tanto uso per quando voglio che una cosa sia accessibile. E Asia Argento ha ritweetato quella, questo lanciavo il post, aiutato Asia Argento ci ha sostenute, sì. Ci ha sostenute in maniera, sentiamo un po' gli ascoltatori. C'è Luciano, ci chiama da Parma. Luciano, buongiorno. Buongiorno a voi. Sì. Cosa volevo dire? Volevo dire un esempio da adiuvandum riportato sulla stampa di una collega di un ufficio postale che riceve dall'altro collega un mazzo di fiori, lo denuncia per molestia. Beh, è chiaro che lei applica un sillogismo, i fiori non sono per cortesia ma sono perché mi vuoi portare a letto. Poi, vabbè, però portanto, non sappiamo la storia com'è. No, la storia è pubblicata. È così, ma c'è un così. Caso più sofisticato di un avvocato che ha sul suo link, sulla sua l'immagine, gli risponde un collega avvocato, questo accade in America, sì, dicendo che lei è molto bella, è una controparte tra di loro. Lei lo denuncia perché lui ha divagato sul... Più in generale, quindi diciamo, casi estremi, Luciano. Adesso non credo che, voglio dire, succeda. No, ci sono questi casi, per carità, però non so se portare casi estremi e estremizzazioni. No, però questo caso estremo, secondo me, può aiutare una riflessione che è quella della distinzione, che è un'altra delle cose di cui si tenta di parlare in questi giorni, tra seduzione e molestia, che sono due cose diverse. Certo. Cioè, dove arriva il confine della seduzione, per cui un uomo legittimamente tenta, a prescindere dal potere, di sedurre una donna e gioca le sue carte, a quando quel tentativo di seduzione sconfina e diventa molestia. C'è anche Sergio da Sanremo, buongiorno. Prego Sergio. Buongiorno a voi in studio e a tutti gli ascoltatori. Sì. Due riflessioni, una notizia e una riflessione. Lei mi conferma che la Boldrini ha invitato Asia Argento a restare in Italia? Oggi sul Corriere della Sera c'è un'intervista, dice certo. Mi pare che questa sia la cartina proprio di tornasole della politica italiana. Gli hanno chiesto un parere e ha detto la sì, sua. Sì, infatti. Non capisco la polemica. Hanno fatto una domanda alla Presidente della Camera e lei che è sensibile. La Boldrini a prescindere, no. La Boldrini fa questo, si occupa di questioni femminili, esatto. E quindi siccome è anche un'offesa al paese dire me ne vado perché l'Italia è un paese inadeguato a gestire questa da istituzione, la Boldrini dice ma no, resti. Comunque faccia la seconda considerazione. Poi, Sergio. No, la seconda considerazione è la notizia che ho fondato un sindacato. Un sindacato che cercherà di radunare tutte le attrici che non hanno fatto carriera perché non hanno detto sì e propongo una class action per un'indennità, una sorta di indennità economica per quelle che invece guardi, l'hanno Sergio, fatto. Vedrai che aderiranno in moltissime. Ne abbiamo tanti di sindacati, dai, ce ne risparmi uno, ma cogliamo l'ironia del suo intervento. Però dobbiamo andare in pubblicità e ringraziare i nostri ospiti che sono Massimo Fini, giornalista e scrittore del Fatto Quotidiano, e Giulia Blasi che ha lanciato questo hashtag quella volta che, se siete su Twitter potete come dire dire anche la vostra e capire di che cosa si tratta di più. Questo argomento poteva tenerci qui fino alle 9:40 di stasera. Sì, lo so. Che ma no, perché fare? È un argomento che accende moltissimo. Ma che ne sai, magari e ci poi, ritorniamo. Poi la piega della guerra di genere veramente tra sessi ha preso secondo me una deriva un po' allarmante. Esagerato. Quindi. Dai, comunque, se ti mando una rosa, non denunciarmi. Andiamo alla pubblicità. Tu mandala, poi vedo. I funamboli. Siamo qui, sono le 9:36 minuti. Ci chiama l'800240024 anche Giorgio da Chiasso. Andiamo in Svizzera, come vorrei esserci anch'io, Giorgio. Buongiorno. Buongiorno, come state tutti bene in Svizzera? Ma magari la Lombardia, forse Svizzera. Vai, Giorgio, è che non mobili, ci vogliono, non ci vogliono. Giorgio, buongiorno. Avranno i loro motivi. Ciao, buongiorno, complimenti. Eccoci. Per la trasmissione. Grazie. Grazie. Allora, partiamo da un presupposto. La violenza, la posizione in ogni sua forma è inaccettabile. In caso specifico, io ritengo, oltretutto, ha ragione, nel senso che è certamente preferibile che una donna desideri venire a fare l'amore con me, perché probabilmente sarà più soddisfacente, anzi per certo è più soddisfacente. Quindi la coercizione, l'utilizzo di una posizione di potere, quanto altro, di certo non ti dà la stessa soddisfazione. Quindi c'è una questione più che non dare soddisfazione, è proprio un reato, ecco. No, lui ne faceva anche una considerazione di amor proprio maschile. C'è una questione di soddisfazione. Sì. Mm-hmm. Ora, io vado di fronte a una situazione come quella che hanno vissuto queste persone che hanno denunciato questo imprenditore, questo impresario. Io ho tre possibilità, meno che non sono un bambino, cioè un minore, ma a quel punto devo essere tutelato dalla legge. La prima è quella di alzarmi e andarmene. Sì? O se la no ci sto. La seconda è di alzarmi e andarmene e denunciarlo. Già lei fa l'avvocato, non lo so. La terza è quella di rimanere e farlo. Dopodiché, se l'ho fatto, cari signori, sto zitto perché mi andava bene. Lei alla fine dell'intervento arriva al punto. Allora, questo punto, Giorgio, no, per sempre per il dono della sintesi, è un po' la critica che molti hanno fatto, cioè si vedono dopo tanti anni tante denunce, poche per la verità all'epoca magari ai magistrati e molte ora ai giornali. Però c'è anche devo dirti da dire che... Alessandro, che io che sono la prima ad avere delle perplessità su questo aspetto, devo però dire che c'è un elemento che non viene molto considerato, che è la giovanissima età in cui a volte accadono questi episodi. In questo caso no, però talvolta insomma una ragazza di 20 anni, sì, a mio avviso a 16 ma anche a 20, sì, ma ci sono una ragazza casi meno strumenti rispetto ad una donna di 40 o a una certo, ragazza hai già visto di 3... i nomi però che sono usciti in questi casi, Gwyneth Paltrow, cioè anche persone già affermate, assolutamente attrici, sì, affermate, però chiaramente noi stiamo utilizzando questo scandalo che è uscito, che è emerso, per parlare di una serie di fenomeni che si verificano. Allora, sì, è molto più semplice, anche in termini di abuso psicologico, avere un ascendente su una ragazza molto giovane che ancora non ha una reale consapevolezza nemmeno dell'utilizzo della propria femminilità. Allora, perché una donna a 40, se lo fa, lo fa in maniera, se non altro, molto più consapevole. Dobbiamo cambiare tema però, perché altrimenti, come sai, il radio si corre, cara Veronica. Fermami, mettimi una barriera. Ti metto una barriera. Allora, dobbiamo parlare di questa vicenda che ci riporta al tema italiano scuola, perché c'è stato il TAR del Friuli Venezia Giulia che è intervenuto. Quando aboliremo i TAR? Sarà sempre un giorno di ritardo. Comunque, considerazione, in Svizzera non ce li hanno i TAR, no? Non credo, sono più evoluti. Il TAR del Friuli Venezia Giulia ha annullato la bocciatura di uno studente di seconda media. La motivazione, e salutiamo l'avvocato Alessandro Tudor che rappresenta il padre del ragazzo. Buongiorno avvocato, grazie di essere con noi. La motivazione in estrema sintesi è questa: siccome è figlio di una coppia separata, gli insegnanti informavano solo la madre del cattivo andamento scolastico e non il padre, che non ha saputo nulla e quindi non è potuto intervenire per cercare di correggere la situazione, e quindi il padre non informato ha fatto ricorso. Così, avvocato, in estrema sintesi è andata. Corretto. Le sembra, sì, giusto, perché lei difende il padre, quindi, però come si fa a bocciare un ragazzo a questo punto? Vabbè, boccia ragazzo se va male a scuola. Ma questa è una sentenza che va letta e andava male. No, questo male, ci questo spieghi ragazzo. Che cosa sottende questa sentenza, no, questa avvocato? È una sentenza che va letta su un'altra linea, ovvero sugli obblighi che la scuola ha nei confronti dei genitori e nei confronti di genitori che sono separati. L'attenzione è stata posta molto sul ragazzino e sul fatto che, pur impreparato, conseguirà la promozione in via così giudiziaria. Però non è tanto questo il fatto. Questo è importante certamente per il ragazzino. Il fatto è un altro, il fatto che la sentenza afferma al principio per cui, in caso di genitori separati che abbiano un affido congiunto, la scuola è obbligata a comunicare tutti e due. E questo non è un mero formalismo, no? Ma per carità, è importante, no? È giusto che... Però come si fa a entrare nelle case delle famiglie a dire ma il padre è informato, la madre è informata? Cioè la scuola... È molto semplice. Guardi, intanto bisogna un po' contestualizzare. Nel caso, questo è un caso anche abbastanza particolare, perché la scuola ebbe modo di informare esclusivamente la madre, cioè mandò alcune comunicazioni solo alla madre. Ecco, quindi bastava estenderle anche al padre, perché la scuola era consapevole della situazione di disagio che il minore stava così passando proprio a causa della situazione. Ma secondo lei, avvocato, questa sentenza è volta più a promuovere un approccio alla bigenitorialità anche in caso di genitori separati, o in qualche modo secondo lei si focalizza sull'aspetto problematico familiare del ragazzo, per cui la bocciatura assume una connotazione in quel caso ingiusta, secondo lei? No, no, guardi, assolutamente la prima delle cose che lei ha evidenziato. Un tentativo di coinvolgere entrambi i genitori e di creare un precedente in questo senso? Assolutamente sì, che peraltro è previsto dalla legge. Mm-hmm. Il tribunale ha applicato la legge e ha applicato una sai, i tribunali applicano sempre le leggi, avvocato. Sì, certo. il problema è che nell'applicazione... il problema è che nell'applicazione delle leggi poi ci sta tutto. Cioè, per carità, la scuola avrebbe dovuto entrare in qualche modo, sapendo la situazione, entrare anche nelle dinamiche familiari. Ma no, guardi, la scuola era a perfetta conoscenza in questo caso delle dinamiche familiari. Cioè, aveva anche l'atto della separazione dei genitori, perché c'era stata un'iscrizione che dipendeva poi da un provvedimento del tribunale ordinario dove stavano discutendo della separazione, per cui la scuola era in questo caso all'evidenza di tutto. Ma ribaltando, avvocato, non è anche dovere di un genitore, quindi anche del padre, di informarsi come va il figlio? Sì, ma questo è corretto, questo è una considerazione corretta nel caso che è minorenne, peraltro. Sì, no, il padre l'aveva anche fatto, era andato a scuola, aveva ricevuto rassicurazioni. Però io mi ripeto, scusi, ma i genitori non comunicano tra loro? Non si parlano più? Beh, può accadere adesso nel caso. No, questa accadrà, però è il genitore che deve andare, ha un figlio di 13 anni, 14 anni, dovrà andare lui a scuola, dire come va mio figlio? Ma questo era accaduto. E allora lo sapeva come andava? No, non lo sapeva, fino al punto, lo sapeva che c'erano dei problemi, ma non sapeva che aveva avuto dei voti negativi, che la condotta non era positiva. Capito, ma perché? Cioè, gliel'hanno no, perché mentito, hanno mentito a scuola? No, scusi, sono stati fatti dei colloqui, diciamo, intermedi, ma tutte le comunicazioni invece in cui si diceva guarda, ci sono questi problemi, non sono mai state spese al padre. Ma io dico, insomma, dammi il registro, fammi, c'è il registro elettronico ormai in tante scuole, fammi vedere i voti, fammi vedere così, sa che proprio non è sempre così, insomma, poi le dinamiche possono essere... No, per carità, ma non vogliamo ribaltare la sentenza, lei è felice, ha ottenuto... Guardi, però io, se posso permettermi di dire una cosa generale, secondo me la sentenza va letta in un'altra ottica. Cioè, lei prima ha fatto un cenno all'abolizione dei TAR, io non sono molto d'accordo, ma non solo perché ci lavoro, ma anche per una questione proprio di giustizia, è un altro discorso. Però guardi, il TAR qui ha affermato un principio che vale per tutta l'amministrazione pubblica. Se l'amministrazione pubblica è obbligata a comunicare quello che succede. Ma ha detto che è andato a scuola, quindi gliel'avranno comunicato male, ma non è che era proprio uno che ci sono delle regole anche da seguire nelle comunicazioni. No. Onestamente l'aspetto che io trovo più interessante di questa sentenza è l'approccio a una sollecitazione alla bigenitorialità, che ma secondo me ha sia in termini di tutela del genitore separato che magari viene estromesso. Ma il genitore che deve essere il primo attore di questa bigenitorialità, cioè genitore che ha un figlio adolescente. Come si informi effetto paradosso, io ottengo questo, ottengo il fatto che nel momento in cui vado a sentenziare che i due genitori devono entrambi essere informati, io sollecito anche il genitore che è meno teso ad occuparsi a farlo. Quindi sì, però me, non è che se non lo fa, appunto, non è che se non lo fa. I padri che si lamentano di essere estromessi e esclusi dalla vita dei figli, perché a volte sono le madri stesse ad essere particolarmente chiuse, in questo senso vengono. Ma non è che se non lo fa, poi dopo può fare ricorso e ottenere la non bocciatura, perché è un genitore che ha un figlio adolescente ha tutti gli strumenti e i doveri, estenditi generale. Ma chi se ne frega, tu ti estendi, tu fai tutte le cose sociali, sociologiche. E invece guardiamo soltanto ma il certo, parliamo di questo caso. Il caso un po' mi sconvolge, ma innervosisce che il papà non sia andato a scuola a chiedere i voti? No, che peraltro è andato, non è che mi innervosisce, è che trovo abbastanza incredibile che dopo non essersi informato debitamente possa avere diritto a cancellare la bocciatura, tutto qui, ma poi sentenza parla, il ragazzo non è stato bocciato, viva la scuola, viva la promozione, viva l'avvocato Alessandro Tudor, che ringraziamo e che ci ha spiegato come ha salvato, come dire, il ragazzino. Tanto tu non sei il TAR, non sarai mai il TAR, non ti illudere. Ringrazio di diventare il cielo, come il TAR. Ringrazio al cielo, andiamo tu al traffico. Tu non puoi dire no, non lo puoi dire. I funamboli. Mm. Buongiorno a voi funamboli. Quante donne usano il faccino carino per fare carriera? Adesso io sono sessista, sono maschilista. Io vedo negli uffici, anche nella politica, guardatevi intorno. E allora, quando alla donna gli conviene certe volte è violenza, quando non gli conviene è un modo come un altro per fare carriera. Va bene, i nostri ascoltatori al 349-238-6666 WhatsApp, anzi ci devono mandare le sigle, non dimenticatelo. Allora c'è Leonardo Manera, eccoci qua, il nostro buongiorno funambolo. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, ma raccontaci io... subito quanti tentativi di molestia hai subito, Leonardo. No, io l'ho raccontato anche l'altro giorno, mi è successo veramente. Adesso lo ribadisco, no. Perché è vero, lavorando in uno spettacolo. No, io no. Spero che tu ne abbia uno al giorno almeno. Non ne ho uno al giorno. Come te, abbi pazienza. Ma ribadirò questa cosa di questa ragazza che mi piaceva, lei non ce n'era, non voleva stare con me. Poi un mio amico le fece questo scherzo dicendo che io avrei dovuto, un mio amico produttore le disse che io avrei dovuto condurre una trasmissione. Il suo atteggiamento cambiò completamente, perché lei pensava che appunto io avrei condotto la trasmissione, avrei anche scelto la partner femminile. Immediatamente lei mi fece capire di essere disposta a venire a letto con me. Peraltro è vero, scusa, Silvio Berlusconi ti ha offerto una trasmissione 2 giorni fa, no, qui in diretta, quindi insomma queste cose purtroppo è il potere in genere, è il sistema di potere, ma anche da parte delle donne che a volte utilizzano questo aspetto. Io ho avuto l'esempio di questa ragazza che è radicalmente cambiata con me, quindi insomma non mi quindi sembra tu che... sei della teoria di Massimo Fini, cioè delle donne che utilizzano la loro estetica per trarne dei giovamenti. Allora, gli uomini a volte utilizzano il proprio potere, come anche le donne, e a volte le donne utilizzano l'estetica, ma questo è successo personalmente a me. Ma vi farò un altro esempio. Ero in una trasmissione, arrivò il curriculum per lavorare dentro questa trasmissione come segretaria, dove c'era il curriculum perfettamente scritto con tutte le sue referenze eccetera eccetera. Alla fine dal curriculum aveva messo una foto di lei nuda. Quindi non puoi mandare il tuo curriculum con le referenze e alla fine mettere la tua foto nuda. Ma che senso ha, dico io? Allora è vero che sarà un sistema di potere, però è un sistema di potere accettato e condiviso, e questa è la cosa che io... Quello, sono d'accordo con te sul fatto che ci sia un problema anche nel genere femminile nell'opporsi a quello che è introiettato come un dato di fatto. Comunque va bene, no, dal mondo dello spettacolo il nostro Leonardo può raccontarlo dal di dentro, eh? Allora, siccome queste cose non so neanche più se facciamo in tempo, certo che facciamo in tempo. A volte ti fanno stare male, ci sarebbe bisogno di stare meglio, di calmarsi, caro Alessandro e Veronica, no? Di andare dallo psicologo. Però ho letto ieri questa inchiesta sul giornale che dice che l'effetto placebo, cioè le pillole anche di zucchero, hanno effetto anche quando sai che è zucchero. Cioè, il medico ti dice stai prendendo una pillolina di zucchero e tu ugualmente stai meglio. Quindi sono arrivato alla conclusione che il paziente sta meglio in realtà perché c'è qualcuno che si occupa di te, che ti sta dicendo guarda, proviamo a guarire questa cosa anche con una pillola di zucchero, che secondo me è il contrario di quello che succede negli ospedali, dove contano solo i numeri e gli orari. Tu arrivi in ospedale sperando di stare meglio e invece vai in ospedale con l'ansia perché dici questi chissà cosa mi fanno. L'unica cosa che conta in ospedale sono gli orari e i numeri. In ospedale alle 6 di mattina arriva gli inservienti, spalancano le finestre, ti buttano giù dal letto, anche se è dicembre, anche se la broncopolmonite, e puliscono tutto con un detersivo più corrosivo della soda caustica, Chilit Bang Hiroshima Special Edition. Alle 7 ti porta la colazione, caffè, latte, tè, puoi scegliere quello che vuoi, perché caffè, latte e tè in ospedale hanno sempre lo stesso sapore. Alle 9 arrivano i medici, a volte arriva il medico da solo, a volte arriva con tutti i tirocinanti. Il medico ufficiale si riconosce perché ha lo stetoscopio in metallo massiccio, a volte in platino. Il tirocinante ha quello comprato alla Lidl a 9,90 €. Ma il problema è che tu vorresti qualcuno che si prendesse veramente cura di te, vorresti stabilire un rapporto col tuo medico, magari chiamarlo Mario, il diminutivo di Mario, così per dire, per stabilire un rapporto. Lui invece arriva, guarda la cartella clinica, poi ti dà un antibiotico e un antidolorifico, poi se continui a lamentarti ti opera. Alle 12, alle 6 di pomeriggio in ospedale si mangia, ed è il trionfo del semolino. La rivincita del semolino sugli altri alimenti, il semolino che nel resto d'Italia ormai si è quasi estinto. Nelle cucine ospedali si prende la sua rivincita e diventa più importante dell'aragosta. Il semolino non sa di niente, non suscita nessuna emozione, è neutro. Infatti, i primi giorni che si è in ospedale non si riesce ad espellerlo, perché lo stomaco tiene il semolino sotto osservazione, per cercare di capire cos'è. Poi alle 7 di sera in ospedale si ferma tutto e arriva l'infermiera del turno di notte. È il tuo momento erotico. Ti ecciti quando senti arrivare l'infermiera col rumore dei loro zoccoli. Non perché siano così belle, ma perché dopo un periodo passato in ospedale, in un reparto di soli uomini, ti ecciteresti anche se vestita da infermiera e arrivassi un daino, per dire. Perciò tu continui a chiamare la tua infermiera perché avresti un rapporto di qualsiasi tipo con lei. Lei arriva, guarda la tua cartella clinica, poi ti dà un antibiotico e un antidolorifico. Poi se continui a lamentarti, ti opera anche l'infermiera. Perciò stai lì tutta la notte da solo ad aspettare che il giorno dopo qualcuno ti venga a trovare per portarti dei biscotti, che sono il vero simbolo dell'ospedale. Ne accumuli pile enormi sul comodino. Gli ospedali non dovrebbero avere il nome dei santi, dovrebbero avere il nome dei biscotti. Ospedale Tegolini, Clinica Bucaneve, Policlinico Crumiri di Casale. Ma i biscotti in ospedale hanno un grande valore simbolico, perché sono gli unici a volte che riescono a darti quella dolcezza, quel calore umano, quell'affetto e quell'effetto placebo che purtroppo quasi nessun medico ti dà, quasi nessuna struttura ospedaliera ormai riesce a darti. Ma pensa che io il semolino lo mangiavo tantissimo, mia mamma mi faceva sempre il semolino, poi il semolino fritto. Io ho una passione per gli gnocchi di semolino, sempre bello. Gli gnocchi alla romana. Esattamente, gli gnocchi alla romana, gli gnocchi di semolino sono una delle cose più buone del mondo. Infatti, ma perché? Ma sono rimasti solo loro. Come esponenti del semolino, è rimasto solo... Guarda che Peter Vescavetti mette la pillola di zucchero che va giù. La prendiamo stamattina, dai, una bella pillolina di zucchero. Basta un po'. La pillola va giù. La pillola va giù. Niente, pur non essendo venerdì, Veronica canta in ritardo. Te l'ho detto, c'è stata una petizione. Mezzo secondo. Comunque mi dicono dalla regia di Roma che se voleste avere me che canto senza nessun ritardo, mettiamo le basi da qui. Quindi il problema è risolto. Non succederà mai. Però allora, nella seconda parte dei funamboli avremo tanti altri argomenti da affrontare. State con noi, perché siamo in diretta fino alle 11. Vuoi diventare professionista del mondo radiofonico? La Business School del Sole 24 Ore, in collaborazione con Radio 24 e RDS, organizza il Master Part-Time Radio Management and Content a Milano dal 23 novembre. Per info www.radiomaster.ilsole24ore.com. I funamboli. Milan, ma questo padre ci andava a parlare con i professori? Così, per sapere. Mi dispiace per il ragazzino e tutto, che i genitori divisi, ma ignorante è e ignorante rimane anche quest'anno. Scusate, mi state pigliando per il culo. Se sono io che non mi informo, la colpa è mia. Sono io che prendo a calci nel culo mio figlio. Non aspetto che i professori me lo dicano, vado io a vedere. Mi sembra proprio di un genitore che c'ha i soldi in tasca da spendere e pagare un avvocato. Perché signori, un figlio di un operaio bocciato rimane bocciato. Cari ascoltatori, ma cosa vi devo dire? Ma adesso c'è Veronica Gentili che Don Chisciotta. Adesso mi trovo contro i mulini a vento, senza neanche troppa determinazione per andare. Però ormai mi sono imbarcata in questa crociata. Ho ricevuto anche un messaggio da mio papà che mi dice: ha ragione Milan. Quindi ormai sono censurata. Capito? No, io vorrei fare che è incredibile, ti dà ragione troppe volte. Questo capito? È un caso però raro. Ieri il papà di Elisa Pancaldi è intervenuta per dire che Nagatomo non si può guardare. E adesso oggi tuo papà Manera, no? Tu no, io sono un padre, io sono un padre separato. Devo dire che della parte scolastica si occupa di più la madre, però io vado sempre quando ci sono i colloqui a parlare con gli insegnanti, cerco di informarmi e poi tra l'altro faccio i compiti con lui, nel senso di domenica o di sabato mi metto lì insieme a lui a fare i compiti, che è una cosa anche insomma non proprio gratificante. Ma però, tanto non ne usciremo da questa cosa, la sentenza c'è. Però attenzione, c'è un messaggio che ci arriva dal nostro ascoltatore di Pechino, ci ascolta da Pechino. Attenzione! Vorrei informare Milan e Manera che per ora l'acquisto del Milan è salvo. Il partito non si è ancora pronunciato. Attenzione! Grande! Grande notizia, alle 10 e 10 minuti. Quindi è tutto sotto controllo? Per ora. Posso per dire ora. Che quando faccio i compiti con mio figlio mi accorgo a volte di non essere in grado di fare i compiti della seconda elementare? Ma che ti frega dei compiti di tuo figlio? Il Milan è salvo per ora. Lascialo pure bocciare in seconda elementare. Ma sta facendo un discorso serio. Parla della paternità, del suo approccio, dell'inadeguatezza culturale. Mamma mia. Scusate. Però alle 10:10 minuti oggi, più che una funambola, abbiamo una funambola di ferro. Una funambola che vogliamo raccontare. Io direi che lei la fune è la bella che ha attraversata. Eh sì. Nome: Federica. Cognome: De Nicola. Età: 24 anni. Studentessa di medicina, ha appena vinto il titolo di campionessa mondiale di Ironman nella categoria fino ai 24 anni. L'Ironman, una cosa che io solo a pronunciare mi fa, sono già stanco. C'è già poi, tutto acido lattico solo a dirlo. Una donna che fa Ironman sembra una cosa, esatto, già di per sé strana, no? Sarebbe un Iron Woman. Federica De Nicola, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Reduce dalle Hawaii, giusto? Esatto, sono tornata da poco, infatti ho ancora problemi col fuso. Ed è tornata vincitrice. Ironman, cioè 4 km a nuoto, poi 180 di ciclismo e una maratona per gradire, ecco. Federica, esatto, hai bruciato 10.000 calorie in una gara, io non mi capacito. Sì, richiede uno sforzo fisico impegnativo, ecco. Infatti per i due giorni successivi ho fame ogni ora. Ci credo. Esatto, per reintegrare però è fondamentale. Quante calorie si possono consumare in una gara così? 10.000. 10.000 davvero? Sì, più o meno 10.000, una cosa del genere, sì. Praticamente perché... fa bisogno alimentare, non so, di una settimana sarebbe. Ma, bisogno calorico. Sì. Facci capire quasi, in quanto si conclude un Iron Man o Iron Woman, in questo caso vincitrice, in quanto tempo? Io ci ho messo 10:06. 10 ore e 6 minuti. Esatto. Poi ovviamente i primi professionisti ci mettono meno. Il primo uomo quest'anno professionista ha fatto il record del mondo in 8:01. Però bisogna concludere entro le 17 ore. Qual è il momento più duro? Perché la successione è, se non sbaglio, nuoto, ciclismo e maratona, è questa? Sì, esatto. Ecco, qual è il momento La maratona più dura? Sicuramente è la più dura, perché si ha alle spalle tutta la stanchezza dei primi due e non si è freschissimi, le gambe fanno male, anche di testa si comincia magari un pochino a mollare. Federica, questo io volevo sapere, l'allenamento della testa al di là del corpo, perché immagino che dal punto di vista mentale ci voglia una disciplina enorme. Sì, quella è la cosa che fa assolutamente la differenza, a mio parere, perché... essendo una gara così lunga bisogna cercare di mantenere il focus, le crisi sono normali e bisogna procedere soprattutto per step, perché se si pensa a quanto manca... È un disastro. Immaginate, uno fa 4 km di nuoto, poi riesce a farne 180 di ciclismo, scende dalla bicicletta e dice ora devo iniziare una maratona. Federica. Se uno la pensa così. Federica. C'è Leonardo Manera che ha cambiato volto. Attenzione. Federica. Federica, perché lo fai? Questa è una domanda che ogni tanto mi faccio anch'io, però è gratificante come nessun'altra cosa, secondo me. Tagliare il traguardo è una sensazione incredibile, anche nel mio quotidiano a me ha cambiato, ha dato molta più sicurezza in me stessa, mi fa stare bene con me stessa, mi piace, è proprio bello. La cosa che ti dà più soddisfazione è riuscire a portare a casa il risultato fisico o sapere che sei riuscita ad avere la cocciutaggine di anche, no, ostinazione di testa di ottenere un risultato così? Entrambe le cose, perché è un sapere di riuscire a dominarsi, di riuscire ad avere il controllo di se stessi per avere questi risultati, e più secondo me più una cosa si ottiene più con fatica, più è gratificante, e l'Ironman di fatica ne posso assicurare. Leggevo il modello da seguire, Alex Zanardi, mi sembra di capire. Lui secondo me è una straordinaria che ha saputo affrontare la disgrazia che gli è capitata nel migliore possibile dei modi, reagendo e trasformandola in positivo, quindi è un po' il mito. Tra l'altro qua chiedevano giustamente in redazione, dice, visto che sarà ed è anche una disciplina olimpica, c'è la possibilità di passare in qualche modo nel professionismo, cioè di scendere di tempi e buttarsi anche in avventure olimpiche? Ma le Olimpiadi sono una distanza molto più corta. Perché sono il triathlon olimpico sono 1500 400 metri a nuoto, 40 in bici e 10 di corsa. Sì. Io ho iniziato tardi, ho iniziato subito con distanze lunghe, quindi sono molto resistente, ma sono meno scattante e mi manca... Tardi che vuol dire? Quanti anni? A 21 anni ho fatto la mia prima gara. Ah. Quindi 2014, 1 giugno 2014 è stata la mia prima gara. E fino a 21 anni che rapporto avevi con lo sport? E lo sportivo in generale, ho provato un po' di tutto, dallo sci alla pallavolo, all'atletica... al tennis, qualsiasi cosa, però non ho mai praticato nulla a livello agonistico. Hai visto un cambiamento a livello mentale, di benefici anche mentali facendo questo sport? Cioè sei cambiato un po' mentalmente? Sì, decisamente, sono più disciplinata, più equilibrata anche nell'affrontare le cose, perché sono più paziente, so che bisogna andare per step, so che i risultati arrivano col tempo. E anche il mio modo di affrontare il quotidiano è diverso. È diverso. Tra l'altro, studentessa di medicina, mi manca proprio la laurea. Chiedono come si fa a studiare medicina. Uno la studia sul proprio corpo, mi sembra di capire. Nel senso che le reazioni fisiche, le reazioni fisiche sono proprio, no? Infatti, quando si suol dire conoscere il proprio corpo. Ecco, Federica De Nicola lo conosce. No, ma Federica, anche quanta è usura fisica? Questa è un'altra domanda che ci ponevano alcuni messaggi, ma che soprattutto mi ponevo io, che già tra tendiniti e varie, cioè, tutto questo sport crea anche delle usure proprio? Sì, assolutamente, cioè fare un Ironman non fa la gara in sé, non è La linea è caduta sull'usura fisica. La tonta Peter Bescapè perché c'è il... Cosa c'è? Non c'è il traffico? No, sì, c'è il traffico, però volevamo fare le ultime due domande. Vabbè, ma abbiamo capito il senso di questa funambola davvero straordinaria di ferro, Federica De Nicola, che ha vinto, campionessa, 24 anni. Nell'Iron Woman, e perché effettivamente bisognerebbe dire, vedrai così, che la Boldrini provvederà. La Boldrini provvederà, sì, allora... fare una battaglia, esatto. L'Iron Woman è giusto, Sì, vabbè, dai, qua c'è Rocky in sottofondo, ti spiezzo in due. Dai, andiamo al traffico, che poi parliamo e torniamo su uno dei nostri cavalli di battaglia, l'abusivismo edilizio. Funamboli. Allora, alle 10:19 minuti, Veronica, Leonardo, due giorni fa in Parlamento, per la verità non è finita proprio sulle prime pagine dei giornali, è successo che c'erano anche nelle tribune alcuni cittadini di Casola, in provincia di Napoli. C'era anche il sindaco Domenico Peccerillo. Buongiorno sindaco e grazie di essere qui. Buongiorno a lei. Perché si discuteva il DDL Falanga, senatore Falanga, che è un disegno di legge molto dibattuto perché vuole stabilire delle priorità nell'abbattimento delle case, degli edifici abusivi. No? Vuol tema mettere... che ci portiamo dietro da quest'estate in maniera... calda. Sì, il senatore Falanga si arrabbia molto quando si dice che è un disegno di legge pro abusivismo. Lui dice: io voglio stabilire, visto che non si possono abbattere tutti gli edifici abusivi d'Italia, un criterio di priorità. Però mettendo in fondo le case abusive, il dato di fatto che arriverebbero per ultime non si abbatterebbero mai. Ecco. Comunque il DDL Falanga è stato di fatto accantonato, caro sindaco, e voi eravate arrabbiati in Parlamento. Perché? Allora, intanto buongiorno a lei, buongiorno ai radiospettatori che sono in diretta in questo momento, ma io voglio dire in prima battuta che io come sindaco sto partecipando ai lavori parlamentari, sto seguendo i lavori parlamentari in riferimento al disegno di legge Falanga, e non c'erano solo i cittadini di Casola, ma i cittadini un po' di tutta la regione Campania, rappresentanti di comitati. E cosa chiedevate? Perché avete protestato? Quello che è successo è un fatto increscioso e a me dispiace tantissimo, perché non si può in tribuna né intervenire né parlare né gridare, quindi io mi dissocio innanzitutto da quello che è accaduto, perché cittadini di non miei del mio comune hanno protestato. Vabbè, ma questo è l'aspetto meno importante. Dai. Hanno un po' urlato dicendo casa, vergogna. Okay, vabbè, okay, ma questo chi se ne frega. Vabbè, è importante. Ma il problema grave è che questo disegno di legge Falanga, che forse molti non hanno visto, letto bene, molti parlamentari, perché parlando ad esempio con l'onorevole Di Battista non ne sapeva nulla. Ognuno pensa che questo disegno di legge sia un condono mascherato. È un po' così. Sindaco, però questo decreto prevede che le opere abusive non siano tutte uguali, che alcune debbano essere demolite prima e altre possano essere abbattute dopo, come se ci fosse una specie di graduatoria, e sono le procure a stabilire la priorità. Quindi un pochino che venga legittimato quello che si chiama abusivismo di necessità è un dato di fatto. Se uno le mette per ultime in graduatoria ad abbattere le case abusive, non si abbattono allora, più. Allora non dice questo il decreto. Allora, i rappresentanti parlamentari del Partito Democratico l'hanno più volte, sia al Senato in commissione e sia alla Camera, l'hanno più volte modificato, e quindi hanno fatto sì che questo disegno di legge non era più del senatore Falanga, ma un disegno di legge chiamato DDL Falanga, sì, ma prettamente modificato da parlamentari. Sì, ma il succo della legge prevede proprio questo, stabilire una graduatoria di abbattimento, no? Oltretutto prevede di fermare le ruspe anche negli immobili realizzati nelle zone così vincolate dal punto di vista paesaggistico, quindi insomma... C'è proprio su una scelta molto precisa, d'accordo, di rallentare i tempi dell'abbattimento delle case. Questo disegno di legge dà la possibilità. Intanto molte procure già hanno adottato un loro protocollo interno di abbattere prima manufatti abusivi che non ultimati, manufatti della camorra, manufatti per la speculazione, e poi si va a colpire manufatti di prima. Ma vede che sindaco, in altre parole lei ha detto quello che abbiamo detto noi, stabilisce una graduatoria di ordine di priorità di abbattimento, siamo d'accordo su questo? Siamo d'accordo, l'abbiamo detto in parole diverse. Siamo d'accordo pure che il disegno di legge dice esattamente che vanno abbattuti quei manufatti anche di necessità in zone vincolate. Sì. E quindi non esclude dove c'è un vincolo idrogeologico. E va bene, però mettendo in fondo, che ne so, le case, mettendo prima quelli vincolati, tolti alla camorra, poi quelli non ultimati, poi mettendo in fondo quello oltretutto, che in fondo non si abbatterà mai. Perché, oltretutto, mettendo... Si accelera i tempi a costruire le case, perché se si dice appunto mai. Che quelle che sono già ultimate vengono abbattute successivamente, c'è anche un incentivo a sbrigarsi a terminare gli abusi. Questa è un'altra delle obiezioni che viene fatta a questo disegno di legge. Ma vabbè, si possono fare tante obiezioni a questo disegno di legge, ma se lo leggiamo bene capiamo che oggi i sindaci, le amministrazioni e gli uffici tecnici hanno una norma certa nella scelta della demolizione, quindi sapranno da dove iniziare e da chi iniziare, perché più volte si è visto, soprattutto in zone un pochettino ad alto rischio di criminalità, che vengono abbattute case dove potevano lasciare ancora per un po' di tempo, perché c'erano nuclei familiari di 4-5 persone, e poi magari la casa del camorrista oppure il manufatto grezzo non finito è ancora lì in attesa di quale sentenza e di quale ordine di demolizione ci sarà. Allora, rispetto a questo problema, la legge Falanga dice andiamo a colpire gradualmente, secondo una legge discipliniamo bene che cosa bisogna abbattere in primis. Ma in questo modo non le sembra di legittimare implicitamente anche come messaggio, no, l'abusivismo, no, in qualche modo? Ma a me non mi sembra. A me come sindaco mi dà la possibilità di poter procedere alla demolizione secondo una norma certa, leggibile, una norma che mi dice inizia dalla lettera A, B, C e così via e vai avanti. Ecco, sindaco, quindi... infatti lei giustamente dice come sindaco, io le faccio una domanda un po' provocatoria, però in realtà che ha un fondamento. Questo decreto ha anche il vantaggio per lei e per gli altri sindaci di sollevarvi un po' dalle responsabilità e addossarle prevalentemente ai prefetti e alla magistratura. Non è vero, non ci toglie responsabilità, anzi ci mette nelle condizioni di poter precisamente stabilire quale fabbricato poter demolire rispetto a un altro abitato da un nucleo familiare. Sì. Ma questo, senta, vedi che anche il presidente dell'ANCI Campania ha chiarito bene che è onorevole Tuccillo di Area Centro-Sinistra PD, ha chiarito bene che questa norma per la Campania era importante, doveva essere approvata, non affondata, sì. E qui c'è da dire che ancora una volta il Parlamento, i parlamentari hanno dato dimostrazione di non decidere. Però non sindaco, non è che non hanno deciso, hanno proprio deciso che sono contrari a farla approvare, che è una cosa un po' diversa. Anche perché poi ci sono stati diversi episodi, sì. Sindaco, dopo c'è stata Ischia, è stata successiva a questo disegno di legge. Ci sono stati degli episodi che hanno riacceso molto la polemica e quindi l'idea Ma poi non si capisce una cosa, come mai il sindaco di Licata, ex, che noi abbiamo avuto varie volte, Cambiano, lui ha battuto, ha fatto abbattere e per questo ci ha rimesso il posto da sindaco. Certo che c'è una problematica, non è che si possono abbattere tutti gli edifici abusivi di colpo in Italia, perché primo dove mettere i detriti e poi non ci sono gli strumenti, non ci sono i soldi. Però dietro a questa graduatoria si nasconde un po' il... Secondo alcuni è il tentativo di non farlo. Allora io la domanda non la faccio a lei, ma la faccio a tutti i parlamentari che hanno votato a favore dell'affossamento, possiamo dire, di questo decreto. Sì. La motivazione e in commissione quale intervento ancora faranno su questo disegno di legge? Se lo possono fare. Ma forse non lo vogliono più questo, cioè forse non lo ritengono adeguato. Allora un parlamentare deve avere il coraggio di dire io voto favorevole o voto contrario. Ma guardi, per esempio Realacci dice è una sciagura questo... Allora non dovevano votare il ritorno in commissione, ma dovevano votare... Contrariamente, ma lo sa che ritorna in commissione, finisce la legislatura, è un modo per farla saltare. E chiuderla così. Anche perché, sindaco, lei lo sa che la questione dell'abusivismo è una questione che nessuno vuole toccare perché è fonte di voti enorme. E adesso siamo pre-elezioni siciliane e la regione Sicilia, pre-elezioni nazionali. Quindi nessuno vuole toccare questa patata bollente. Allora, però, dobbiamo dire che, allora ho ragione io quando dico che i parlamentari non hanno avuto il coraggio ancora una volta di essere chiari. Sindaco, per concludere, la vogliamo ringraziare e salutare, ma perché lei era lì? Cioè, ci sono tante immagini o manufatti abusivi, è un problema l'abusivismo. Che percentuale c'è di abusismo nel suo comune? Sto seguendo da quando sono diventato sindaco, un pochettino tutti i lavori, delle demolizioni, quindi ero lì per seguire. Ce ne sono nel suo comune? Sì, immagino. Ma noi abbiamo fatto anche qualche demolizione nel nostro comune. Abbiamo demolito una strada che andava in montagna, abbiamo ridato nuovamente il sentiero naturalistico in montagna, quindi abbiamo demolito delle baracche che occupavano uno spazio pubblico. C'è stata una demolizione nel 2009 di un fabbricato di civile abitazione. Quindi noi lavoriamo ancora tranquillamente, ma comunque questo disegno di legge a me metteva nelle condizioni di poter procedere con più serenità. Sindaco, lei vive in una casa regolare o abusiva? No, io vivo in una casa regolare. Leonardo Manera ci mette sempre il veleno nella cosa. Io penso che molti parlamentari non vivono, hanno ville, come anche i ministri, hanno ville in zone abusive, tipo Ischia, Capri, quant'altro. È un'accusa grave. Ministri già sono pochi, sono identificabili. Non ci solleva, sindaco, qualora fosse. No, ma insomma, si assume la responsabilità di quello che dice, perché bisogna provarlo. Non è che può dire ministri hanno le bille. Non tutti vanno a Ischia, molti vanno a Ischia, hanno molte case, a Ischia, Capri. Poi andiamo a verificare. Ma gli abitanti arrabbiati l'altro giorno se ne sono andati soddisfatti? Cioè, la loro protesta ha avuto un esito di qualche tipo oppure no? Gli abitanti se ne sono andati arrabbiati perché volevano avere la certezza di una votazione, se era sì o era no. Invece è stato rinviato in commissione, ma ripeto, sindaco, glielo spieghi, lei che conosce un po' la politica, è come un no, dai, su, non passerà questo DDL Falanga. La ringraziamo, sindaco di Casola, Napoli, Domenico Peccerillo. Andiamo alla borsa, poi ci sono tanti ascoltatori, state lì, abbiate ancora un po' di pazienza sulla questione della scuola, la bocciatura, abbiamo suscitato un vespaio. I funamboli. Allora, siamo qui alle 10:37 minuti, ci sono tanti ascoltatori, c'è Elena da Roma, buongiorno Elena. Buongiorno Alessandro, buongiorno Veronica e un abbraccio anche a Manera. Grazie. Addirittura, prego. Sì, prego, grande, prego. Grande Manera. Allora, io chiamavo in realtà per portare la mia testimonianza di donna che ha iniziato a lavorare a 19 anni in aziende, in società, istituti anche di un certo come dire, di una certa importanza in Italia e a Roma, e già a 19 anni ho avuto da un lato il privilegio di frequentare certi ambienti e certe personalità del mondo dell'economia e della politica. E cosa ha dedotto? E ho dedotto che la donna nell'ambiente lavorativo è sempre e comunque a rischio rispetto a quello che è il potere dell'uomo e il linguaggio sessuale che in qualsiasi ambiente, io ho militato anche in movimenti e partiti di centrosinistra e quindi insomma credo a 54 anni oggi, dopo un'esperienza di vita anche difficile e di impegno civico e sociale, di poter dire che se si vuole si possono evitare, si possono fare delle scelte. Ah, questo quindi non lei vuol dice dire... una sorta di ammiccamento c'è sempre in tutti gli ambienti, c'è però... sempre in tutti gli ambienti, e il trauma sicuramente resta un trauma interiore anche laddove c'è una scelta consapevole della donna di accettare quel messaggio sessuale. Nel suo caso lei ha avuto delle lei ha avuto delle conseguenze, immagino, per aver avuto un atteggiamento così integro? No, non ho avuto conseguenze, sono una donna che si sente assolutamente realizzata. La mia difficoltà di vita è legata al fatto che io mi batto anche per i diritti delle persone disabili e sono ambasciatrice del telefono rosa e so cosa vuol dire la violenza sulle donne nel vero senso del termine. Va bene, Elena, la ringraziamo, no, perché sennò non lasciamo spazio. Questa è importante, la distinzione che facevamo prima, che ha indignato molti, no, tra la parola stupro e la parola molestia. Sì, quel crinale molto molto sottile. Perché lo stupro vero e proprio perpetrato su una donna a casa, dentro le mura domestiche, per strada, ovunque, è un conto. La molestia, che è un reato, è un'altra cosa, però. C'è Riccardo da Parma, buongiorno. Buongiorno Alessandro, buongiorno Veronica, e do una stretta di mano a Maniera perché un abbraccio mi sembra troppo. Giustamente tiene la distanza. Non vorremmo far arrabbiare Michele da Firenze. Attacca le malattie, poi è bene star lontano. Riccardo. Esatto, io ho telefonato per quanto riguarda quel ricorso al TAR di cui avete ampiamente parlato prima. Mi sono trovato nel corso, appunto, io ho chiamato subito perché sono un insegnante, quindi ho chiamato subito immediatamente, la discussione poi è proseguita e sono perfettamente d'accordo, appunto, con la vostra linea, soprattutto quella di Alessandro, abbastanza indignato verso questo genitore che tutto sommato dimostra la sua, come dire, incapacità a seguire per tutta la durata dell'anno il ragazzo. Cioè, ormai abbiamo un registro elettronico che può essere consultato online dappertutto, perfino dallo smartphone, quindi non è giustificabile che un genitore a fine anno dica non mi hanno comunicato le difficoltà. No, secondo me non è soprattutto giustificabile, poi uno può fare quello che vuole, che uno per questo faccia ricorso al TAR e non faccia bocciare un figlio, che tra l'altro uno dice ma verrà bocciato in terza se non cambia registro, registro nel senso di, quindi registro in tutti i sensi, registro, no, senso, siamo sempre lì, è fatto. Faticoso occuparsi dei figli, certo, ma bisogna farlo. Certo che è faticoso, lo so, guarda. Tre però, per esempio, giorno, sulla bigenitorialità, anche ieri avete visto che c'era il caso di una bambina molto piccola che la mamma voleva vaccinare, una bimba di 13 mesi, credo, il papà no, e c'è stato anche lì un problema di sentenze, di ricorrere al tribunale. Quindi, al di là poi di questo caso specifico, il problema di come due genitori separati devono essere presenti entrambi nella vita entrambi, di un figlio, basta, è un problema. E lo facciano. Se non lo fai, poi non ricorri al TAR. Non ricorri al TAR. Se non lo fai e non sai come va tuo figlio a scuola, ti arrangi. Vabbè, ma è un peccato non ricorrere al TAR, lo fanno tutti. Esatto. Ma è il momento alle 10:41 di dare spazio ai nostri furbi, furbetti, furbacchioni, furboni, furbini, furbastre. Defurbizziamoci. No. Questa volta la mitragliata era ad personam, su furbina, furbatta, furbella, sì. È arrivata la mitragliata. Sì. C'è, ecco. Come sapete, i nostri ascoltatori raccontano quella volta in cui hanno fatto i furbi. Oggi abbiamo convocato, perché ci ha scritto Andrea, buongiorno. Sì, buongiorno. Che inizia come tutti 30 anni fa, 50 anni fa, vabbè, che è combinato? Quando ancora regnavano i Savoia, accadde? Andrea, che ha fatto? Allora, innanzitutto vi saluto e ho piacere di parlare con voi. Io cosa ho fatto? Faccio una premessa, sono un grande appassionato di Formula 1. E una sera mi sono recato al bar e ho incontrato il mio miglior amico, il quale aveva un pass per entrare ai box per il Gran Premio di Monza. Sì. La mia invidia è stata totale, certo. Cioè, è salita fino a... Dice, devo esserci anch'io. E quindi... Devo esserci anch'io. E quindi che cosa ho fatto? Gli ho chiesto in prestito questo pass per qualche ora. Mi sono recato da un mio carissimo amico che aveva appena installato una fotocopiatrice a colori nella sua azienda, sì, di quelle ad alta definizione. Ho fotocopiato il pass fronte e retro per... diverse copie, sì, sono tornato a casa, premetto che mia mamma faceva la maestra e quindi in casa c'erano un sacco di cartoncini. C'era tutta l'attrezzatura. Tutta l'attrezzatura per falsificare. Esatto. Quindi ho ritagliato queste fotocopie fronte e retro, le ho incollate su un cartoncino che ho poi ritagliato, le ho inserite in una busta trasparente che ho poi ritagliato, ho fatto il buchino per poter inserire poi il cordone rosso come il pass originale, sì, e il giorno seguente mi sono recato al Gran Premio di Formula 1. Andrea, ma invece quanto viene un passaporto? No, no, perché c'era anche delle banconote. Ti serve? No, nel senso, volessimo falsificare banconote come Totò nella banda degli onesti, possiamo rivolgerci a te? No, perché Andrea, 30 anni fa mi sembrava già ben. Andrea, chi vinse? Chi vinse quella gara? Se lo ricorda chi vinse quella gara di Formula 1? No, non mi ricordo adesso. Lui c'era, chi se ne frega? No. Però il bello è stato che io sono arrivato al primo ingresso. No, a Vedano, sì, e sudando, mi hanno guardato, freddo. Sì. No, lì non no. Tanto, e sono andato con la mia fidanzata di allora, la quale era all'oscuro di tutto. Ah, non sono eravate arriva... Bonnie e Clyde, hai fatto tutto da solo. Poi sono arrivato al primo ingresso, mi hanno preso il pass in mano, me l'hanno pinzato e sono entrato. A quel punto potevo guardarmi il Gran Premio dal prato. Tranquillamente, no? Ma secondo me la cosa spiacevole è che lei si sarà anche fatto bello con la sua fidanzata. Dove vieni che ti porto nei box bravo, di Formula 1. E invece no, sono andato fino in fondo. Adesso oramai sono qui, devo arrivare dentro nel paddock. Mi sono recato all'ingresso, certo, del paddock, sono arrivato, l'addetto mi ha fermato, ho controllato il pass e mi ha detto, guarda, devi aspettare 5-10 minuti. A quel punto io pensavo l'arrivo dei carabinieri, insomma, e già il tempo. Mi immaginavo mio padre che mi prendeva a pedate nel sedere fino a casa, no? Ma anche la fidanzata che ti lasciava lì con un palmo di mano dicendo ecco con chi mi sono messa io. Ce l'hai fatta, Andrea, alla fine, ce l'hai fatta entrare proprio nel paddock. Allora, dopo 10 minuti è arrivata la hostess Stella Minardi, io mi ricordo che questo pass era della Minardi, mi ha accompagnato ai box. E allè. Poi mi ha accompagnato di sopra dove c'era tutto un ristorante imbandito e mi sono ritrovato con il mio amico e il suo papà, i quali si sono girati e mi hanno guardato come anche dire tu. Ma cosa fai qua? Anche tu. Quando ho capito che era tutto riservato, lì me la sono veramente fatta sotto. E sono scappato. Però, a casa. Andrea, hai meriti la nostra patente? Deforbizzato. Ecco, è stato deforbizzato. No, ha attaccato la furbizia al chiodo. Sì. Vabbè, falsificatori di pass per paddock di Formula 1. Va bene, avanti così. No, ma andiamo avanti così, andiamo al traffico. Vabbè, per quel documento finto io adesso chiamo. I funamboli. Ah, che bella canzone che ci introduce a un graditissimo ritorno, Veronica? Graditissimo a me. È tornato il dottor Janssen, psicologo. Psicologo che... Saluto ascoltatore di Radio 24. Buongiorno. Salve dottore, salve. E io invito tutte persone a stare bene. Questo, certo, è importante di nostra società. Tante tensioni, difficoltà. E il mio metodo terapeutico è per far stare bene persone. Per vivere bene devi fare, dice anche canzoni di Caparezza, fare cose che ti fanno stare bene. Questo è importante. Certo. In nostra società, per esempio, uno dei motivi di malessere è problemi con vicini di casa. Sì. Tu magari litighi con vicino di casa. E allora dobbiamo fare cose che ci fanno stare bene anche con vicini di casa. Per esempio, vendicarci di vicini di casa, fare schiamazzi nelle ore notturne. Non c'è niente che infastidisce vostro vicino di casa più che fare schiamazzi nelle ore notturne, soprattutto se vostro vicino poi si deve alzare presto per andare al lavoro. Io ho scritto anche un libro, Il potere magico dello schiamazzo. Bello questo però, molto evocativo. Il titolo mi piace. Jodorowsky quasi, sì. Il potere magico dello schiamazzo. E voi godete che vostro vicino di casa non chiude occhio. Mettete sveglia sulle 2-3 di notte proprio per fare schiamazzo a vostro vicino di casa. Prendete strumenti anche se non sapete suonare, flicorno. Andate a cos'è? Flicorno. Il flicorno. Tu lo sai, Veronica, cos'è? È una specie di tromba. E tu prendi flicorno e fai schiamazzi con tuo vicino. E poi è potere magico di schiamazzo che ti fa stare meglio. Sì, certo, il vicino, poverino. Oppure vicino per vendicarvi, perché vendicare di vicino di casa fa stare bene. Ma come vendicare? Fa stare bene vendicare di vicino di casa. Se avete scarpe sporche, pulitele sul zerbino di vicino. Non su vostro che poi si sporca, non si accorge nessuno. Che giusto, certo. Prima di entrare in casa andate sul zerbino di vicino, anzi sporcate appositamente scarpe per andare a pulire su zerbino di vicino, mettendo anche cola per impastare tutto. No, ma dai, mettete cola anche nella toppa di serratura di vicino di casa, poi divertite quando lui non riesce a entrare. Questa cosa fa stare bene. Certo. Non il vicino. Non il vicino, ma voi state bene. Ma non è suo paziente il vicino, te l'ha psicologo detto. Si occupa di vostro benessere, non del benessere di tuo vicino. A me, tu da soldi a me, io importa che tu stai bene. Certo. Ho vicino di casa, io non mi dà soldi. Questo è giusto. Poi scrivete insulti su muri condominiali. No, ma come insulti? Dai, no, gli insulti no. A vostro vicino di casa, mettendo anche parolacce pesanti. Poi se vi accusano, dite non sono stato io, ma intanto ridete. State bene. Ridere fa stare bene. Sì, certo, effettivamente. Buttate olio esausto davanti al zerbino di vostro vicino di casa. Esausto. Lui può scivolare, rompersi costola. Questa cosa vi fa stare bene. Ma perché? Ma lei è un po' sadico. È vendetta. Vendetta fa stare bene. Se lui ha posto auto condominiale, in giardino condominiale, invitate vostro amico con macchina, fategli posteggiare macchina in posto auto condominiale di vostro vicino. Insopportabile, insopportabile. Lui gira per ore, intanto si nervosisce. Dice, chi ha messo macchina, bastardo schifoso? Sì. È vostro amico! E voi l'avete invitato. E questo fa stare bene, ovviamente. Fa stare bene. Se siete in riunione condominiale, votate sempre contro proposte di vostro vicino. Se lui deve mettere condizionatore perché muore di caldo e deve fare buco in muro comune, votate sempre no. Lui suda, gronda di sudore, muore di caldo e voi state bene. Certo, ovvio. Perché lui sta male, noi stiamo bene. Se vostro vicino di casa stende tappeti su balcone per togliere, diciamo, sporco da tappeto, voi andate in giardino condominiale con fionda, buttate letame. Letame su tappeto e non lo trova sporco con fionda giù da giardino condominiale. Buttate letame con fionda su tappeti anche, diciamo, in balcone di vostro vicino. Questa cosa vi fa stare bene. Perché psicologo si occupa di vostro benessere. Sì, è chiaro. Vicino chi se ne frega, l'importante è che voi state bene. Perché poi anche il vicino andrà dal dottore e gli dirà di fare lo stesso a noi. Attenzione però, perché c'è scritto un'ascoltatrice, Jansen, attento che so dove abiti, sono la vicina. Questo effettivamente bisogna fare attenzione. Provate il mio metodo terapeutico, basta inibizioni, fate cose che vi fanno stare bene. Stare bene. Allora, noi ringraziamo il dottor Jansen, il nostro Leonardo Manera, ovviamente ringraziamo così anche... Ringraziamo Veronica Gentili e Alessandro Milan, se Merinanno lo faccio io per voi. I funamboli tornano domani puntuali alle 9:09 dopo il giornale radio delle 9, Veronica? Domani sorpresona. Ma io vado a comprare la fionda adesso e provo a tirare il letame. Ma no! Ma me l'ha detto il dottor Jansen, io devo stare bene. Puoi prendere anche carabina d'aria compressa e bucare tappeto con spari di carabina. Bucare tappeto con spari di carabina. Dai. Io le faccio tutte e due. Noi oggi. Tra i defurbizziamo, c'è il dottor Jansen e altre cose, mi sa che rischiamo che un faccio? Po'. Prima sparo e poi vi chiamo e mi defurbizzo. Perfetto! A domani!